sia vera vita quella che vediamo intorno a noi, perché ognuno pensa a sé e non pensa che si possa stare meglio di così. Non è vero questo se molti fossero con te a pensare a un mondo che non è quello che ora c'è. Quando vedi tanta gente insieme a te, dimmi cos'è che riunisce tutti quelli come te. Se li vedi bianchi e neri intorno a te, dimmi cos'è che li fa riunire in pace anche con te. Non è certo il calcio, il rugby o sport che vuoi, sai che tu questi uniscono per poco e per i guai. Non è neanche quella musica che poi vedi che tu non risolve mai i problemi che tu hai. Non vuoi saper più, tu hai, non vuoi saper più. Forse a volte pensi che non si possa andare avanti con quegli altri intorno a noi, e sarebbe bello se molti possano capire quanto è meglio far così. Ed è vero questo se molti fossero con te a pensare a un mondo che quello che ora c'è. Quando vedi tanta gente insieme a te, dimmi cos'è che riunisce tutti quelli come te. Se li vedi bianchi e neri intorno a te, dimmi cos'è che li fa riunire in pace anche con te. Non è certo il calcio, il rugby o sport che vuoi, sai che tu